Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.08, buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Questa sera a sorpresa sono al comando di Focus Economia, spero di potervi tenere piacevolmente compagnia, anche se i temi economici sono tutt'altro che di questo tenore in questo periodo, però tant'è, il nostro dovere dobbiamo farlo, dobbiamo un po' monitorare quello che accade, che ci accade intorno, quello che accade nel nostro paese, soprattutto quello che sta accadendo in queste ore a Bruxelles, perché come sapete bene sta salendo l'attesa per il vertice decisivo per l'Europa, questo vertice del Consiglio europeo che tiene puntati i riflettori sull'Italia. E si è appreso poco fa che la lettera con gli impegni del nostro paese è stata ricevuta dalle istituzioni europee. Questa notizia è stata battuta dalle agenzie in simultanea proprio pochi minuti fa ed è una notizia appunto che è stata presa appunto da fonti europee. Ricordiamo appunto come sia la Commissione europea che il presidente dell'Unione europea Van Rompuy avevano esplicitamente con grande fermezza chiesto al nostro paese un impegno che avrebbero dovuto esaudire nel giro di pochi giorni, una lista di misure concrete molto dettagliate con un chiaro calendario per fronteggiare la situazione italiana e soprattutto oltre che raggiungere il pareggio di bilancio che è l'obiettivo che si dovrebbe raggiungere con le due manovre della scorsa estate, però insomma accanto al pareggio di bilancio bisogna anche attuare dei provvedimenti per la crescita del paese, stimolare il PIL. Questo è quanto si aspettava appunto l'Unione Europea. La lettera è arrivata e vedremo poi quale è stata già la reazione, se se ne è già registrata qualcuna appunto a Bruxelles. Ci collegheremo più tardi con l'inviato delle Sole 24 Ore. Di che cos'altro parleremo oggi? Chiaramente i mercati finanziari, sedute indecise in vista di questo appuntamento, ma anche borse che hanno reagito ad altre notizie. Oggi pensate che adesso c'è un quadro negativo tra l'insieme del vecchio continente. Stamattina la situazione è stata decisamente piatta, gli indici non si muovevano molto. Poi nel primo pomeriggio sono arrivati alcuni dati economici americani buoni, alcune trimestrali così, di fronte alle quali però il mercato non ha avuto molta voglia di reagire. Sono piaciuti soprattutto i dati macro, c'è stato il buon dato sugli ordini, sugli ordinativi appunto di beni durevoli negli Stati Uniti che è piaciuto. E gli indici hanno avuto un'accelerata improvvisa tra le 2.30 e le 3.30, adesso riscende tutto di nuovo. Guida i ribassi Francoforte che perde un punto, Parigi meno 0.47, Londra meno 0.46 e paradossalmente si salva Milano che cede lo 0.23%. C'è un arretramento sensibile anche dell'euro sul dollaro a 1.38 e 28. Stamattina il rapporto di cambio è arrivato a 1.39.75, quindi quasi a 1.40 sui massimi da circa 6 settimane a questa parte. Invece adesso vistosa marcia indietro ovunque. Lo spread fra BTP e Bund stamattina era partito a 391 punti base per poi rallentare un po' il passo. Oltre che di tutto questo, oggi parleremo anche dell'ultimo discorso nella sua veste di governatore della Banca d'Italia di Mario Draghi oggi a Roma davanti alla platea della Giornata Mondiale del Risparmio, un discorso molto atteso. Draghi ha parlato anche già praticamente, poi vi faremo sentire stralci del suo intervento di questa mattina, come presidente in pectore della Banca Centrale Europea. D'altronde i giorni che lo separano a quella poltrona sono pochissimi e tra le cose che Draghi ha detto oggi: termino il mio mandato in una situazione confusa e drammatica a livello nazionale, internazionale, politico ed economico, e ha ammesso 6 anni fa, quando ha assunto questo incarico, la situazione era ben diversa. E poi ha anche espresso il suo commento sulla lettera di intenti formulata dal governo italiano, ha detto: è un passo importante, pieno di riforme organiche per l'economia italiana, ora si tratta di farle e farle con rapidità e concretezza. Soprattutto Draghi ha detto: bisogna nel nostro paese tutelare anche le fasce più deboli. Parleremo anche dell'Expo di Milano nel corso della nostra trasmissione, di tanto altro ancora. Faremo un cenno anche alla drammatica situazione che si sta consumando in queste ore in Liguria, perché Oltre alle vittime e ai danni del territorio, ci sono anche i danni alle imprese. Abbiamo sentito il presidente della Confindustria di uno di quei posti, appunto, per capire un po' da quel punto di vista quali i danni che si possono quantificare fino a questo momento, ma ci sarà tutto il tempo purtroppo per ampliare sensibilmente questo bilancio. 349-238-6666, il numero se volete farci compagnia con i vostri messaggi. Adesso le altre notizie della giornata. Sapete bene che partiamo sempre con uno sguardo al mercato delle commodities, alle materie prime. Come ha aperto oggi il petrolio a New York, in leggero calo, $93,03 al barile. Il metallo giallo invece, l'oro, oggi ha ripreso a correre, è arrivato sull'oncia a $1,720. I leader del mondo ascoltino le voci della protesta globale e offrano soluzioni audaci per risolvere la crisi. Questo è l'appello lanciato dal segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon nel giorno del vertice europeo di Bruxelles, ma anche in vista della riunione del G20 in programma la settimana prossima a Cannes. Altre dichiarazioni sempre di portata internazionale. Il direttore del Fondo Salva Stati, Klaus Regling, sarà in visita in Cina venerdì prossimo perché, secondo indiscrezioni, la Cina potrebbe diventare un importante contribuente del Fondo Salva Stati europeo. La Russia, come altri paesi del BRIC, questo agglomerato Brasile, Russia, India, Cina, è pronta ad aiutare l'Europa, ma solo partecipando al Fondo di Stabilità Europeo, prima di tutto attraverso il Fondo Monetario Internazionale, dove sta investendo le sue risorse. Questo è quanto ha dichiarato invece il consigliere economico del Cremlino Dvorkovic alla vigilia del G20 di Cannes. E circolano già delle bozze che potrebbero così dare un po' il tenore di come potrebbe concludersi il vertice dell'Unione Europea. Secondo quello che si è potuto apprendere fino a questo momento, alle banche verranno chieste misure di ricapitalizzazione che porti i loro coefficienti patrimoniali, il famigerato Core Tier 1, al 9%. Ci avviciniamo al momento della verità, dobbiamo fare un accordo che resista alla prova dei fatti, lo ha detto invece il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker entrando al summit europeo. Forse, ha spiegato Juncker, non potremo chiarire tutti i dettagli, ma l'orientamento complessivo stasera deve essere molto chiaro. Parole di cautela che peraltro sono state pronunciate anche da Angela Merkel, la cancelliera tedesca, all'arrivo a Palazzo Lipsius per il vertice europeo, appunto, di Bruxelles. La Merkel ha detto: ci sono ancora molti problemi da risolvere, il lavoro non è ancora finito. Per quello che riguarda sempre l'Italia, vi ribadisco, la lettera con gli impegni dell'Italia è stata ricevuta dalle istituzioni europee. Ci sono sempre, relativamente a questo, altre dichiarazioni del presidente dell'Eurogruppo Juncker, che ha detto: dall'Italia ci aspettiamo una lista di misure concrete molto dettagliate con un calendario chiaro. I nostri amici italiani lo sanno benissimo che partiamo dal presupposto che stasera ci annunceranno sforzi considerevoli di consolidamento. Andiamo ancora, da qualche giorno non si facevano sentire, ma c'è una dichiarazione di uno dei vertici alti di Fitch. Alessandro Settepani, senior director di Fitch con competenze sull'Italia, avrebbe detto che i tassi di crescita italiani previsti per il prossimo anno sono molto bassi. La mancanza di interventi per rilanciare l'economia nel medio termine può influire, e tanto per cambiare, sul rating. Vogliamo ricordare anche che questa mattina il Tesoro italiano ha avuto un appuntamento con il mercato molto importante perché doveva collocare 8 miliardi e mezzo di bot a 6 mesi. L'appuntamento c'è stato, l'asta è riuscita, è stata anche un'asta che ha avuto una domanda totalmente soddisfatta, ma ovviamente il Tesoro ha pagato caro questo appuntamento perché il tasso è cresciuto di questa emissione al 3,53%, in forte rialzo rispetto al rendimento spuntato nell'asta di settembre al 3,07%. Ci sono stati c'è stato anche un altro appuntamento, sono stati collocati anche 2 miliardi di CTZ con scadenza nel 2013, in questo caso con un rendimento del 4,62%. A Allora, avete sentito il bilancio nel nostro giornale radio degli drammatici effetti del maltempo in Liguria, morti, dispersi, e purtroppo il bilancio è ancora provvisorio di questa ondata di maltempo che si è abbattuta non solo sulla Liguria ma anche sulla Toscana. Le zone più colpite sono nel Levante Ligure, in provincia di La Spezia, in particolare a Borghetto Vara, dove fino ad ora i morti accertati appunto sono 6, 3 dispersi. Una prima stima dei danni l'ha fatta anche l'Associazione degli Industriali. Il presidente di Confindustria alla Spezia, Giorgio Bucchioni, racconta la situazione al microfono della nostra Valeria De Rosa. La situazione è particolarmente grave in alcuni punti specifici, come per esempio la vallata del Magra e la Val di Vara. Molte aziende sono andate sott'acqua. Ci aspettiamo interventi pesanti dal punto di vista del rallentamento produttivo. Nelle prossime settimane sicuramente ci sarà perdita di produzione e quindi di ricchezza. La cosa che amareggia è che ormai questo tipo di situazione si ripete da troppo tempo, tutti gli anni, senza che si riesca a porre un rimedio. Noi guardiamo anche con attenzione e cerchiamo di sollecitare gli enti pubblici ha una reattività che sia adeguata all'emergenza. Faccio un esempio per tutti: ci sono delle aziende che già stamattina hanno cominciato a ripulire le aree dal fango e la legislazione nostra prevede che il fango sia un rifiuto. Mi auguro che ci siano reazioni pronte da parte degli enti locali per individuare i siti dove buttare il fango che le aziende rimuovono dai loro impianti. Mi può dire anche quante aziende sono state coinvolte dal maltempo? Guardi, secondo le informazioni che abbiamo raccolto, che hanno raccolto gli uffici, abbiamo una trentina di aziende coinvolte e i danni sono importanti, valutabili nell'ordine dei milioni di euro. Adesso non certamente forse di centinaia, ma di svariati milioni di euro senz'altro. E da un disastro ambientale ad un altro, per modo di dire, parliamo del piano per Pompei, perché sarebbero stati resi disponibili 105 milioni dell'Unione Europea proprio a questo fine. Oggi su questa iniziativa, su questo provvedimento, chiamiamolo così, c'è stata una conferenza stampa del ministro dei beni culturali Giancarlo Galan, che ha detto: mi sento sotto esame solo perché sono una persona prudente, però è fatta, i 105 milioni dell'Unione Europea ci sono. Sentiamo Galan al microfono di Francesco Martinelli. La regione destinataria dei fondi europei insieme al Ministero utilizza risorse dell'Europa coinvolgendo direttamente l'Europa stessa. Beh, si dimostra collaborazione, capacità di spesa e anche una buona qualità nel livello dei progetti. Insomma, è fatta, i 105 milioni ci sono, si tratterà adesso di spenderli nel miglior modo possibile per far fare bella figura all'Italia in campo europeo e anche per realizzare una cosa importante. In questi 60 ettari è caduto un muretto costruito nel 1943 o 47. Poco cambia, di nessun pregio. Intervenire sulle questioni proprio importanti di Pompei, prima di tutto il deflusso delle acque piovane, che è quello che è contenuto nel progetto che per la prima volta Pompei ha, un progetto di grande respiro, di monitoraggio costante. E al solito il cambio di colonna sonora che ci accompagna annuncia anche il cambio di tema, soprattutto il primo approfondimento di questa puntata. Chissà che il tempo non incida anche sulla dinamica della mia lingua, che si sta inceppando, forse perché è da qualche ora che sono qui in radio. Detto questo, parliamo adesso dell'87esima giornata mondiale del risparmio organizzata dall'ACRI, l'associazione delle fondazioni delle casse di risparmio. Per la verità, già un approfondimento l'ha fatto ieri Sebastiano Barisoni, cercando di raccontarvi proprio che cosa è emerge da questa ennesima rilevazione che per l'ACRI viene fatta appunto dalla Ipsos. Ieri abbiamo sentito Nando Pagnoncelli che ci ha raccontato di come le famiglie italiane vogliano terribilmente risparmiare ma non ce la fanno perché non ci sono le risorse, perché ci sono molte difficoltà. In questa giornata invece ufficiale, con questo appuntamento, ogni anno c'è la relazione del governatore della Banca d'Italia, ci sono le dichiarazioni del ministro dell'economia, ma quest'anno alle dichiarazioni di Mario Draghi si guardava con particolare attenzione perché, come sapete, è stato l'ultimo appuntamento ufficiale in questo ruolo, perché dal 1 novembre appunto si cambia incarico, si va a Francoforte a fare il presidente della Banca Centrale Europea. In qualche maniera noi abbiamo un po' spezzettato il suo intervento, il primo che vi proponiamo, così ci è sembrato proprio quello più da vestito già da presidente della Banca Centrale Europea, perché Draghi ha detto che resta essenziale la stabilità dei prezzi nell'area euro. Sentiamolo. Resta essenziale assicurare la stabilità dei prezzi, ancorando le aspettative inflazionistiche nell'area dell'euro in linea con l'obiettivo di mantenere l'inflazione al di sotto, ma prossima al 2% nel medio termine. Gli interventi impediscono l'aggravarsi degli squilibri. Non sono però in grado da soli di risolverne le cause di fondo. A livello europeo è necessario e urgente darsi una governance in cui disciplina di bilancio e solidarietà trovino reciproco supporto. È necessaria inoltre l'immediata attuazione degli strumenti di sostegno finanziario per la gestione della crisi. Ma senza una risposta risolutiva e duratura che venga da adeguate politiche nazionali che, promuovendo la crescita, rimuovano gli squilibri delle finanze pubbliche, il primo obiettivo, quello di darsi una governance europea, non è raggiungibile. Il secondo, quello di avere un meccanismo di sostegno finanziario per la gestione della crisi, sarebbe solo un palliativo. E allora, insomma, l'ossessione della Banca Centrale Europea, lo sapete, la stabilità dei prezzi, l'inflazione che va mantenuta intorno a quota 2%, sarà anche questa la sua mission, quella di controllare questo livello, naturalmente, anche se fino adesso lo ha fatto ovviamente attraverso la leva dei tassi di interesse, ma Draghi sa già che per aiutare l'economia una spinta verso il basso i tassi di interesse europei dovrà darla nelle prossime riunioni. Vedremo se recepirà questa richiesta da parte del mercato. E poi naturalmente Draghi, dopo queste indicazioni, è andato anche alla situazione italiana. Parlando della vulnerabilità del nostro paese, ha parlato di una situazione che ha delle radici nazionali. Sentiamolo. L'aggravarsi della crisi ha una dimensione mondiale e europea, ma la particolare vulnerabilità dell'Italia ha radici nazionali. L'alto livello del debito pubblico, i dubbi sulle prospettive di crescita della nostra economia, le incertezze e i ritardi con cui si provvede alla correzione degli squilibri e delle misure del rilancio di crescita. Il rendimento lordo dei BTP decennali, dopo essersi ridotto in agosto, è tornato su livelli molto elevati. Dopo 6 mesi di sostanziale ristagno, nel secondo trimestre di quest'anno il prodotto in Italia è però tornato a crescere, ma a un ritmo ancora molto modesto. Le vendite all'estero, che pur continuano a sostenere l'attività economica, risentono del minor vigore della domanda mondiale. Nei sondaggi le imprese segnalano un indebolimento delle prospettive a breve termine e un deterioramento dei giudizi sulle condizioni per investire. Sulla domanda interna pesano la debolezza del reddito disponibile delle famiglie, la lenta ripresa dell'occupazione, la stessa incertezza delle prospettive dell'economia. I principali istituti di previsione hanno rivisto al ribasso le aspettative di crescita per il prossimo anno e, secondo il Fondo Monetario Internazionale, queste sono appena positive. Un export meno vigoroso, la grande ricchezza del nostro paese, d'altronde prospettive deboli a breve termine, il reddito disponibile delle famiglie che si riduce sempre di più, e di conseguenza questo che cosa comporta? Che la ricchezza delle famiglie, magari accumulata in passato attraverso il risparmio, adesso purtroppo debba essere intaccata. Sentiamo, proprio a proposito delle tematiche del risparmio, al centro di questa 87esima giornata mondiale del risparmio organizzata dall'ACRI, sentiamo proprio su questo punto ancora ormai l'ex governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. La ricchezza accumulata riflette però i risparmi del passato e, se non è alimentata da nuovi flussi, viene intaccata in tempi brevi. Non mancano dei rischi in questo senso. Dall'inizio dello scorso decennio la propensione al risparmio è scesa di 4 punti percentuali, attestandosi nel 2010 al 12% del reddito, un valore di quasi 2 punti inferiore a quello del resto dell'area. La flessione è stata più accentuata nei nuclei appartenenti alle classi meno abbienti, che a fronte della stagnazione del reddito disponibile hanno più difficoltà a comprimere i consumi di beni e servizi essenziali. Quanto pesa il fisco? Pesa molto naturalmente nel nostro sistema. Il governatore della Banca d'Italia, che poco fa ho definito a questo punto ex, ha detto che bisogna attuare delle riforme per un rilancio duraturo del nostro paese, perché quelle che sono state previste sono ancora inattuate. Poi ha anche detto che occorre trasferire il peso del fisco su proprietà e consumo dalle imposte e dai contributi che invece gravano sul lavoro e sulla produzione. Sentiamo anche questo importante passaggio di Mario Draghi. Nel breve periodo un sostegno alla crescita può venire da azioni di tipo macroeconomico. La composizione del prelievo fiscale può essere modificata trasferendo il peso dalle imposte e dai contributi che gravano sul lavoro e sull'attività produttiva all'imposizione sulla proprietà e sul consumo. Ma un rilancio duraturo della crescita sostenibile passa soprattutto attraverso le riforme strutturali da tempo invocate, in larga parte condivise e parzialmente inattuate. Elevare la concorrenza nei mercati dei prodotti, in particolare nei servizi, costruire un contesto amministrativo e regolatorio più favorevole all'attività di impresa, sospingere l'accumulazione di capitale fisico ed umano, innalzare i livelli di partecipazione al mercato del lavoro. Allora, un altro, ci sarebbero davvero tanti passaggi di Draghi da farvi ascoltare, mi manterrei su questo filone che abbiamo appunto intrapreso adesso, il tema del lavoro, perché Draghi ha detto bisogna estendere le tutele del lavoro sbilanciate sugli anziani per riequilibrare le opportunità di lavoro e le prospettive del reddito, quindi il suo richiamo è ad una maggiore attenzione sulle difficoltà economiche dei più giovani. La crisi ha acuito soprattutto le difficoltà economiche dei più giovani. In caso di perdita dell'occupazione, i nostri giovani sono poco protetti dagli strumenti esistenti di sostegno al reddito. Ridurre la segmentazione oggi esistente nel mercato del lavoro e rendere più universali, oltre che più efficaci e rigorose, le tutele fornite, riequilibrerebbe le opportunità occupazionali e le prospettive di reddito, oggi fortemente sbilanciate a favore delle generazioni più anziane. Un contratto con protezioni crescenti nel tempo, anche come proposto dal Governo, a partire dalla revisione dei contratti di apprendistato che contrastino forme improprie di lavoro dei giovani, l'introduzione di un moderno sistema di sussidi di disoccupazione renderebbero il mercato del lavoro più fluido ed efficiente, oltre che più equo. Allora, questi sono alcuni dei passaggi del discorso tenuto oggi da Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, il suo ultimo discorso alla platea italiana in questa veste, all'87esima giornata mondiale del risparmio che si è tenuta a Roma. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, poi ritorniamo, sentiremo i passaggi conclusivi del suo discorso, poi andremo ai mercati e soprattutto poi andremo chiaramente a Bruxelles per capire che aria tira in vista dell'avvio del supervertice di oggi. Intanto Milano in questo momento segna sul FTSE MIB meno 0,18%, a tra poco. Eccoci ritrovati a Focus Economia. Paolo, mi sono fiondata sopra la sigla di riapertura del programma, perché ci abbiamo talmente tante cose da dire che ovviamente vogliamo dirle tutte quante in questa giornata che è prevalentemente, qualcuno mi prende anche un po' in giro quando uso questo termine, ma è così, perché è interlocutoria, perché stiamo aspettando in maniera molto febbrile questo vertice che inizia alle 18. Sapremo tra poco che aria tira con l'inviato del Sole 24 Ore Vittorio D'Arò. Sapremo anche, conosceremo, ci faremo raccontare da un altro collega del Sole 24 Ore il contenuto, per quello che si è potuto apprendere fino a ieri sera tardi, appunto, della famosa missiva che il governo italiano ha dovuto mandare alle istituzioni europee per rassicurare l'Europa appunto sulla nostra buona volontà a proposito di rimettere in pista la crescita del paese. La lettera è arrivata, fonti delle istituzioni europee lo hanno confermato poco fa, chissà se da quello che hanno potuto leggere, almeno dopo averla ricevuta dopo pochi minuti, appunto, si sono un po' rasserenati gli animi. Le borse oggi sono state piuttosto indecise, la giornata di borsa però non ve la racconto ancora perché vorrei finire di sentire quanto ha detto questa mattina alla giornata mondiale del risparmio Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia, al suo ultimo appuntamento ufficiale con il nostro paese, perché tra pochi giorni si trasferisce a Francoforte a fare il presidente della BCE. Abbiamo già ascoltato i passaggi in cui ha parlato del problema dell'Italia, della sua vulnerabilità che ha radici fondamentalmente nazionali in questo momento. Ha parlato della necessità di attuare riforme promesse da tempo per un rilancio duraturo, serve maggiore concorrenza sui mercati, più partecipazione al lavoro, bisogna trasferire il peso del fisco sulla proprietà e sui consumi e alleggerire quello che grava invece sul lavoro e sulla produzione, bisogna estendere estendere le tutele del lavoro perché sono troppo sbilanciate sugli anziani, bisogna quindi fronteggiare le crescenti difficoltà economiche in cui si trovano i più giovani. In sostanza, la sua conclusione significativa è stata che il suo mandato termina in una situazione che ha definito così. Termino il mio mandato in una situazione confusa e drammatica sul piano nazionale, su quello internazionale, sul fronte politico, su quello economico. Quando prendevo la parola in questa sede 6 anni fa, incidentalmente con un discorso che verteva sulla crescita, come vedete una fantasia limitata, la situazione era ben diversa. La sua apparente tranquillità, la compiacenza generale, l'ammirazione addirittura verso la finanza come motore di sviluppo nascondevano, in un certo senso come avviene in qualche romanzo di Joseph Roth, i semi della catastrofe futura. Della crisi l'Italia non aveva nulla da rimproverarsi. Per debolezze strutturali mai curate, ne veniva travolta, penalizzata più di altre, al punto di trovarsi essa stessa oggi, un po' per la lentezza nell'uscire dalla sua crisi, ad essere divenuta essa stessa una ragione di crisi generale. Ma continuo a pensare che la gravità e la complessità della situazione non devono farci dimenticare i nostri punti di forza. E vorrei dire che il primo di questi è il nostro Capo dello Stato, che desidero ringraziare personalmente. Che desidero ringraziare personalmente come cittadino e istituzionalmente a nome della Banca d'Italia. Insomma, passaggi molto significativi. Le debolezze strutturali dell'Italia mai curate hanno portato il nostro paese ad essere la ragione stessa della crisi europea che in questo momento appunto ci attanaglia e che ci preoccupa non poco. E intanto ovviamente alle parole di Draghi hanno fatto eco anche quelle del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che pure oggi ha partecipato alla giornata mondiale del risparmio. È necessario avere più fiducia in noi, speriamo che lo pensino anche a Bruxelles. Intanto sentiamo Tremonti. Credo che tutti dobbiamo un po' riflettere su cosa si deve fare di più, su cosa si deve fare diverso, perché non esistono solo aree dove sta il male, aree che per opposizione invece rappresentano, costituiscono e si autocandidano per il bene. Credo che la riflessione debba essere comune. Credito deriva dalla parola credere, e questo nella forza che è tipica delle parole, in principio era il verbo, dovrebbe tutti portarci a credere al bene comune e a pensare di avere un po' più di fiducia in noi, tra di noi e per noi. Allora, l'ultima dichiarazione che vi faccio ascoltare è quella che invece a margine dei lavori della giornata mondiale del risparmio, c'erano tutti i banchieri italiani ovviamente, ha rilasciato anche Corrado Passera, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo. Chiaramente molti giornalisti si sono avventati addosso appunto proprio ai numeri uno delle grandi banche italiane per chiedere quale sensazione avessero rispetto a questi ulteriori requisiti stringenti in termini di capitalizzazione appunto chiesti dall'Europa. Si parla di un core tier 1 al 9%, come vi dicevo in apertura. Vedremo che misure verranno ufficializzate al vertice di Bruxelles e intanto però sentiamo Passera che cosa pensa rispetto a tutto questo. Già il fatto che si debba parlare di indiscrezione invece di andare tutti insieme con un programma convincente, approfondito, a discuterlo con l'Europa è già un elemento di delusione. Continuiamo a essere incalzati dall'Europa invece di andare con delle proposte convincenti, strutturali, che ci tirino fuori dall'angolo nel quale siamo finiti, per cui ecco, parlare di soddisfazione no. Ma il tema delle pensioni è così fondamentale secondo lei, tra le riforme? Secondo me dobbiamo mettere tutto insieme, ci sono delle cose dove risparmiare, delle cose dove investire, delle spese da ridurre, delle spese da aumentare, degli investimenti da fare, dei sacrifici da chiedere, dei benefici da distribuire. Ragionare su ogni singola cosa non permette di dare la visione d'insieme e continuamente continuiamo a fare questa cosa. Comunque speriamo che quello che viene portato in Europa oggi sia convincente per l'Europa. Mi permette un'ultima domanda sulle banche. Prima erano virtuose quelle italiane, adesso sono sotto accusa un po' da parte di tutta Europa. Erano e sono virtuose. Il fatto di essersi dedicati all'economia reale oggi ovviamente crea qualche aggravio. Il fatto di essercela cavata sempre con le nostre risorse è la dimostrazione che abbiamo preso le decisioni giuste nel tempo. Ecco, adesso sarebbe paradossale che le banche che di più si sono dedicate al mondo delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni fossero alla fine appunto penalizzate. Almeno nei bilanci delle banche italiane non c'è la bomba a mano che c'è all'interno dei bilanci delle banche tedesche e francesi dell'haircut, cioè del taglio del debito greco, che sarà almeno tra il 50 e il 60%, per cui almeno su questo appunto possiamo dirci tranquilli, su altro non lo so, ma insomma lo vedremo. Detto questo, che cosa facciamo poi? Ci fermiamo per i suggerimenti per chi è in viaggio? Andiamo in borsa? Sì, sentiamo direttamente i suggerimenti per chi è in viaggio in modo tale da non tagliare brutalmente la nostra Eleonora Micheli, che è già pronta tra un po' per raccontarci quello che è successo oggi in borsa. Allora, eccoci ritrovati, giornata davvero importante quella di oggi. Per gli appuntamenti che abbiamo visto stamattina, Mario Draghi, gli abbiamo dedicato veramente quasi una sorta di tributo a Focus Economia in questo suo ultimo appuntamento ufficiale come governatore della Banca d'Italia. Peraltro abbiamo ancora altri contributi da farvi ascoltare, li abbiamo diluiti nel corso di tutta la trasmissione. E poi giornata di attesa anche per il super vertice europeo, e chiaramente sulla scia di questa attesa oggi si è mossa anche la borsa. Eleonora Micheli, buonasera Eleonora. Buonasera. Allora, giornata che è stata direi ondivaga, in qualche maniera contrastata, partita senza infamia e senza lode, poi gli indici negativi, nella prima parte del pomeriggio è arrivato un bel dato americano, gli indici hanno ripreso a correre e poi naturalmente ci ha pensato ancora una volta la signora Merkel a raffreddare gli animi. Esatto, oggi è una giornata assolutamente, diciamo, come hai detto tu, ondivaga, cioè i listini sono stati ovviamente in preda alla volatilità, al nervosismo in vista delle decisioni che verranno prese nel corso dell'importante vertice che inizierà tra poco. Nel pomeriggio è stato il dato americano a far schizzare al rialzo listini, anche Piazza Affari era arrivata a guadagnare quasi il 2%, poi appunto hanno rallentato il passo sulle parole della Merkel. D'altra parte erano andati su anche sulle indiscrezioni che in primis sia stato raggiunto un accordo di massima sulla ricapitalizzazione degli istituti di credito europei in modo che tutti abbiano un core tier 1 superiore al 9%. Per ora si tratta di una bozza che circola, ovviamente niente di ufficiale. E poi anche i listini hanno festeggiato la notizia che i deputati tedeschi hanno dato un largo mandato alla Merkel per trattare per il fondo salva stati. D'altra parte poi sono arrivate le parole della Merkel che ha detto: ci sono ancora molti problemi da risolvere, il lavoro non è ancora finito, quasi come a preannunciare che il vertice di questa sera alla fine non presenterà le soluzioni concrete di cui hanno bisogno effettivamente i mercati, ma ancora diciamo delle linee di principio. E poi a meno che non abbia già dato una lettera a quella lettera che aspettava da noi e non gli sia piaciuta nei contenuti, quindi vorrei anche vedere se uno dei tanti problemi ancora da risolvere. Sappiamo benissimo che anche il nostro, Eleonora, ma insomma lo vedremo tra qualche ora. Sì, poi anche Stark comunque, che è il capo degli economisti della Banca Centrale Europea e che è in uscita, ha smorzato gli entusiasmi asserendo di non essere sicuro che il peggio della crisi sia passato. Insomma, una serie di cose che alla fine hanno raffreddato gli animi e i titoli hanno virato al ribasso, soprattutto i titoli delle banche. Unicredit era arrivata a guadagnare oltre il 4%, ha chiuso in progresso positivo ma solo dello 0,9%. Le altre sono andate male, con UBI che ha perso addirittura il 5%. Complessivamente il listino, mi è sfuggito se tu l'hai detto meno, Eleonora, comunque ha fatto più 0,07%, il FTSE MIB Parigi meno 0,15%, Francoforte meno 0,51%, Londra più 0,47%, Wall Street contrastata adesso. complesso Dow Jones più 0,48, Nasdaq meno 0,36%, euro su dollaro a 1,38,50. Ancora un paio di minutini ce li abbiamo per raccontare magari qualche altra storia di Piazza Affari. Abbiamo come miglior titolo Prysmian più 2,71, Azimut più 2,12, Fiat Industrial più 2, oggi peraltro settore auto sotto i riflettori dopo l'allarme lanciato da Peugeot Citroën, Buzzi Unicem più 1,95. Beh, sì, su Fiat Industrial, magari sul settore auto forse vale la pena in onore fare un po' un approfondimento. Esatto, c'è molto, sono accesi i riflettori sia su Fiat SPAC che su Fiat Industrial, visto che domani si riuniranno i consigli di amministrazione delle due società per approvare i conti del terzo trimestre. Gli ordini in acquisto comunque hanno privilegiato le Fiat Industrial, che anzi hanno chiuso in progresso del 2%, ma ricordiamo che nei giorni scorsi la concorrente Caterpillar aveva pubblicato una trimestrale molto buona e quindi si spera che anche Fiat Industrial domani faccia altrettanto. Fiat ha avuto una giornata un po' in linea con il listino, è andata su, poi è tornata giù, ha chiuso in calo dello 0,8%. Anche per Fiat c'è grande attesa per i conti trimestrali e grande nervosismo a dispetto del fatto che anche ieri l'amministratore delegato Marchionne abbia comunque rassicurato che la società procede in modo tale che dovrebbero essere confermati i target precedentemente dati. Beh, mi pare che poi tra l'altro anche Ford abbia comunicato i risultati, sempre nel settore negli Stati Uniti, il titolo non andava particolarmente bene a Wall Street. Eleonora, non riusciamo a raccontare altro, dopo io velocemente le altre prestazioni, per adesso grazie per essere stata con noi, buona serata. Buonasera. UbiBanca, ci diceva Eleonora, meno 5, la Popolare di Milano meno 4,52, Fondiaria meno 4,30, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,54, Tenaris meno 1,51 e meno 1,5% anche per il Banco Popolare e per A2A. Lasciamo la borsa, adesso andiamo al nostro ultimo approfondimento per questa parte di Focus Economia. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va. Davide Colombo, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Te l'aspettavi questa? Beh, diciamo che è intonata al momento. Allora, parliamo della famigerata lettera che le istituzioni europee dovrebbero aver ricevuto, questa lettera con gli impegni dell'Italia per rilanciare la crescita del nostro paese e soprattutto appunto giurare sul sangue che il pareggio di bilancio lo raggiungeremo nel 2013 ma soprattutto appunto che siamo in grado di mettere in piedi degli impegni seri e concreti per stimolare il PIL italiano, perché questo è quanto ci manca. Allora, tu questa mattina Davide hai elencato sulle Sole 24 Ore quelli che sono stati, quelli che dovrebbero essere i contenuti, anche se poi chiaramente non credo che tu la missiva l'abbia vista personalmente, ma qua si viaggia chiaramente con le indiscrezioni, contenuti, la previdenza, i conti pubblici, le infrastrutture, le semplificazioni. Insomma, ci puoi fare una sintesi del contenuto di questa famosa missiva e poi vedremo se i contenuti piaceranno a Bruxelles, così poi monitoriamo anche la situazione a Bruxelles più tardi con Vittorio Darold. Davide. Dunque, i contenuti, questa, per quelle indiscrezioni che abbiamo avuto nella tarda serata di ieri, poi questa mattina si è saputo che la lettera è stata ulteriormente ritoccata, perfezionata, dovrebbero essere 14 pagine, è stata inviata, dovrebbe sostanzialmente ribadire quelli che sono stati gli interventi fatti con le due manovre estive, fondamentalmente per l'obiettivo che dicevi tu prima del pareggio di bilancio nel 2013, e vengono ribaditi anche e motivati gli interventi che sono stati fatti nel 2010 e quest'anno in materia previdenziale, interventi che la Commissione europea all'epoca approvò e che ora il governo si impegna e ribadisce l'impegno verranno attuati fino in fondo. Dopodiché questa lettera appunto indica in prospettiva alcuni dei contenuti che dovrebbero essere invece in questo decreto sviluppo di cui si parla da due mesi circa, e che fondamentalmente vertono su una garanzia di tempi certi per lo stanziamento delle risorse per per gli investimenti privati per le infrastrutture, e il pacchetto di deregolamentazione di semplificazione normativa per le imprese e per i cittadini, che pure dovrebbe fare parte magna pars di questo decreto sviluppo. Quindi sostanzialmente dovrebbe essere questa la filosofia di questa missiva a Bruxelles, posto che il Consiglio dei Ministri straordinario di lunedì scorso non è servito a varare una misura che evidentemente ci si aspettava sulla presidenza. E certo, il tema è che non sono riusciti ad andare a Bruxelles con un provvedimento legislativo, ma con un documento, che è cosa ben diversa, quindi potrebbe anche questo far storcere il naso a Bruxelles. 10 secondi di tempo, Davide, per chiederti una cosa: ma secondo te questi funzionari che inviano le missive a Bruxelles, quindi come le scrivono? Mandano una mail, prendono carta, penna, carta e calamaio? Ma come funziona, tu che frequenti gli ambienti romani e palazzi romani? Mi sono chiesta questa cosa qua, come arriva, chi l'ha spedita, chi l'ha mandata, chi l'ha trasportata fisicamente? Questo, diciamo che se ci fosse la trasparenza, che fa parte di un pezzo importante del programma di questo governo, la trasparenza nella PA, lo sapremo. Non so se è andata con posta elettronica certificata e ci mancherebbe altro. No. Ma Aline Brunetta avrà monitorato molto attentamente. Davide, devo salutarti perché dobbiamo lasciare lo spazio adesso al giornale radio, sentire se si è aggiornato il terribile bilancio che arriva dalla Liguria. Poi noi ritorniamo con Focus Economia e da Roma andiamo a seguire il percorso della missiva del governo italiano. Vedremo appunto se è arrivata a Bruxelles, soprattutto quale reazione ha provocato tra i partecipanti del vertice europeo. Tra poco. Sono 18:10, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Per l'ultima parte di Focus Economia ci concentreremo molto sulle vicende di Bruxelles, naturalmente, e d'altronde questo appuntamento lo stiamo aspettando ossessivamente da diversi giorni, questo super vertice che dovrebbe ufficializzare le misure per aggredire e affrontare la crisi, anche il super vertice che attende anche, anzi è già arrivata perché le fonti europee lo hanno confermato poco fa, la famosa missiva del governo italiano, all'interno della quale ci sono appunto queste indicazioni e promesse di intervento per rilanciare la crescita del paese, visto che già le misure, secondo quello che appunto il nostro governo continua a dire, per riportare il pareggio di bilancio entro il 2013, appunto sono già state prese con le due manovre della scorsa estate. Detto questo, siccome all'interno di questa missiva ci sono anche le promesse del governo italiano sugli interventi relativi alla previdenza, e questa è l'altra grande preoccupazione delle famiglie italiane, appunto il Sole 24 Ore da diversi giorni sta cavalcando molto questo argomento e domani lo rifarà con una iniziativa speciale, perché proporrà il pensionometro. Allora, buonasera Gianni Trovati, collega del Quotidiano. Buonasera. Allora, io so già che praticamente andrò in pensione almeno fra 30 anni. Tu che hai 10 anni meno di me lo sai che non ci andrai mai, sei consapevole di questo? Ma infatti sì. È molto bello, io parlo di pensioni come una cosa molto accademica che non mi riguarderà mai. Hai già fatto la tua simulazione sul pensionometro per vedere come funziona, per verificare come funziona? Raccontaci un po', insomma, perché questa è un'iniziativa adesso a parte tutto il nostro folklore, molto concreta, perché in base ai dati anagrafici, all'entità dei versamenti contribuiti, dei versamenti di contributi appunto effettuati appunto dai lavoratori che domani vorranno cimentarsi in questo esperimento, appunto si può capire quando e come si potrà andare in pensione. Sì, stiamo aggiornando e rifacendo il nostro pensionometro, che per ogni tipologia di lavoratore, in base all'età anagrafica, cioè all'anno di nascita e all'anno in cui ha iniziato a lavorare e quindi a versare i contributi, indica l'anno di pensionamento effettivo, tenendo conto delle diverse variabili che sono state introdotte appunto dalle ultime due norme. Tenuto conto delle attuali normative e delle possibili misure anche. E delle possibili misure che dovrebbero essere contenute in questa lettera mandata a Bruxelles, che dopo la infilata di vertici notturni tra il tra governo, venerdì e domenica, la Lega, eccetera, dovrebbero aver prodotto un'ipotesi sostanzialmente minima di ritocchi ulteriori, legata in prima battuta all'anticipo degli scalini della sequela degli scalini introdotti nell'ultima manovra per equiparare progressivamente la pensione di vecchiaia delle donne che lavorano nel privato a quella prevista già adesso per le donne che lavorano nel pubblico impiego e per gli uomini, quindi per portare progressivamente l'età a 65 anni. L'Europa però ci chiedeva 67. L'Europa ci chiedeva 67, la posizione del governo è dire che in effetti arriviamo comunque a 67 in progressione a causa del fatto che intervengono sulla pensione di vecchiaia gli aggiornamenti automatici legati all'aumento della speranza di vita che a partire da un certo punto in poi, dal 2026 sostanzialmente, tra aggiornamento automatico per la speranza di vita, cosiddetta finestra mobile che sposta di un anno o di un anno e mezzo per nel caso degli autonomi. Il pensionamento si supera quota 67 anni. Qual è il grande non detto dietro a questa posizione e la cosa su cui si basa, diciamo, il fragile equilibrio trovato con la Lega? Che l'intenzione è quella di non toccare in alcun modo i requisiti per la pensione di anzianità. Allora, in questo quadro tu puoi portare anche a 100 anni l'età di pensionamento di vecchiaia, non fai che aumentare lo spazio per l'uscita di anzianità e quindi sempre meno gente andrà in vecchiaia e sempre più gente andrà in anzianità, come comincia a succedere e succederà in maniera ancora più netta dall'anno prossimo per quanto riguarda le donne che lavorano nel pubblico impiego, perché lo spostamento secco da 61 a 65 anni dell'età minima per andare in pensione riguarda solo la vecchiaia, ma questo non toglie che si possa andare in anzianità a 62, a 63, se si hanno eccetera, un tot di contributi appunto versati, di anni di versamenti già effettuati. Ti dobbiamo lasciare, Gianni, perché abbiamo ancora tante cose da raccontare, 5 secondi solo per così capire qual è la tua sensazione se questo pacchetto sulla previdenza a Bruxelles basterà. Probabilmente basterà oggi, non basterà domani. Grazie, buona serata e buon lavoro, vai a terminare il pensionometro con il quale noi domani ci divertiremo un po' tutti. Adesso un'altra piccola pausa, poi ritorniamo immediatamente. Rapidamente un saluto a Bruno che mi dice che sono una menagramo e che sembro Gioiro quando le cose vanno male, e come no, guardi, non se la immagina quanto sono contenta. E poi un altro ascoltatore che invece ci chiede di spiegare qual è la differenza fra pensione di vecchiaia e di anzianità. Ci vorrebbe un trattato in 2 secondi. La pensione di anzianità è quella che si può fruire avvalendosi solamente del numero dei contributi degli anni diversamente appunto di contributi effettuati, 40 anni appunto per tutti, mentre la vecchiaia è un mix di età anagrafica e contributi. Adesso credo che si vada in pensione con quota 96, quindi le faccio un esempio: 63 anni di età e 36 anni di contributi versati. Questo proprio in estrema sintesi per farle capire la differenza fra i due concetti. Prima di andare a Bruxelles, perché so che aspettate di capire cosa sta succedendo là, un altro tema per un paio di minuti: il 28 ottobre partono le ruspe, e cioè dopodomani, sul cantiere di Expo 2015 per realizzare i servizi sull'area dove sorgeranno i padiglioni. Abbiamo sentito l'amministratore delegato della società di gestione di Expo 2015, Giuseppe Sala, che al microfono di Francesco Maesano ci ha parlato dei prossimi passi che muoverà la macchina organizzativa. Il 28 ottobre partono i lavori innanzitutto per infrastrutturare l'area, il sito. Oggi è un terreno, diciamo, ad uso agricolo, per così dire, ci sono in mezzo stradine, un torrentello e via discorrendo, va pulito, sistemato, vanno messi i servizi. Le costruzioni dei padiglioni avverranno più avanti, quindi il 28 comunque si parte ed è una buona notizia. La prima gara che abbiamo lanciata si è svolta con una regolarità straordinaria, cristallina, nei tempi giusti, con una buona aggiudicazione, quindi speriamo di andare avanti così. Come volete coinvolgere i fondi privati, che a quanto ho capito è ancora un po' il tasto più, diciamo, dolente per adesso? Guardi, onestamente, quando si parla di privati si intende soprattutto aziende. Le aziende devono trovare il loro interesse. Possono essere aziende tematiche, cioè aziende che nell'alimentazione, nel business dell'agrofood possono dire qualcosa, oppure possono essere aziende come Telecom Italia, ad esempio, che è stata il nostro primo partner, che farà la rete di PLC e poi offrirà i servizi relativi. Stiamo facendo e faremo dei bandi, che è il nostro unico modo, Ad oggi abbiamo un'unica partnership, siamo appena partiti, ma è una partnership che vale già il 10% delle risorse che dobbiamo raccogliere. La Svizzera è il primo paese che si è mosso per partecipare a questo Expo. La Svizzera si è mossa con una tempestività svizzera, scusi, neanche tanto sottile ironia, ma di fatto oltre a aver dato l'adesione, oltre a firmare il contratto domani, hanno già lanciato un concorso di idee in patria, hanno già una serie di progetti che abbiamo visto, sono già molto avanti. E invece ci lascia una battuta anche sui clusters, cosa sono, cosa saranno? Allora, i cluster sono di fatto dei raggruppamenti tematici di paesi. Innanzitutto, cosa sono questi cluster? Cioè, noi raggrupperemo i paesi che sul caffè, sul riso, sull'agricoltura in zone aride, cioè su tematiche, sul cacao ad esempio, su tematiche del genere possono dire qualcosa. Pensiamo al caffè, sul caffè ci sono tanti piccoli paesi per cui il caffè è una leva importante della loro storia, della loro tradizione, della loro economia. Non possono da solo costruirsi un padiglione e li mettiamo insieme. Questo sarà attrattivo anche per il visitatore. È nella storia di Expo che questi piccoli paesi partecipano, poi i paesi in via di sviluppo sono anche finanziati dal paese che ospita, della società che ospita, quindi in questo caso noi. Però sì, certo, è importante la loro presenza, non è importante la presenza solo dei colossi, ma io sono fiducioso da come si sta mettendo le cose che riusciremo ad arrivare a 150 adesioni. Se ci arriveremo sarà un successo straordinario per il nostro paese. E sì, come al solito mi buttavo addosso alla sigla di rientro, caro Paolo, mi tuffo sulle musiche, perché così ci rende un po' più leggero anche il trattare tanti argomenti. Allora, andiamo subito a Bruxelles, perché qua dobbiamo capire che aria tira. Vittorio Darold, l'inviato del Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Hanno iniziato puntuali alle 18 i capi di Stato e di Governo? No, c'è stato appena arrivato adesso il premier irlandese, quindi c'è almeno un 22 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, quindi prefissata, queste sì, fatidiche sì. 18 che stiamo evocando da questa mattina. Nel frattempo, in vista di questo appuntamento formale di quest'ora, Vittorio, oggi che cosa è successo? Intanto sappiamo per certo che la missiva italiana è già arrivata, ti chiedo se c'è stata qualche già reazione che hai potuto raccogliere rispetto a questo, e che cosa è successo nel corso della giornata? Ci sono stati incontri bilaterali, appunto, qual è stata la vigilia di questo consesso delle 18:20 a questo punto? Sì, dunque la prima cosa da dire è che appunto la lettera è arrivata e le prime reazioni sono abbastanza positive, perché sembra che ci sia appunto un sentimento piuttosto favorevole. Questo però non vorrà dire che verrà meno poi la pressione ancora sull'Italia, sulla realizzazione di questi piani, di questa agenda che è contenuta nella lettera. Quindi probabilmente la bozza che uscirà questa sera conterrà una valutazione positiva degli sforzi italiani, ma nello stesso tempo continuerà la pressione verso il nostro paese, cioè a mantenere quello che è stato poi scritto. Il secondo punto di questa giornata è che c'è molta incertezza su tutto il resto, cioè sui tre punti successivi, e qui si è evidenziato un grave conflitto tra Francia e Germania sulla risoluzione del finanziamento delle banche. Parigi chiede maggiori misure di sostegno, mentre Berlino frena preoccupata soprattutto delle sue finanze e di non superare il mandato che la Merkel ha ricevuto dalla commissione bilancio del Bundestag questa mattina. Proprio oggi, infatti. Ma questo perché, secondo te, Vittorio? Perché la Francia ha fatto questa richiesta? Per preoccupata per la situazione delle proprie banche, visto che tra l'altro saranno le più penalizzate proprio anche per il taglio che dovrà essere effettuato sul valore dei titoli del debito greco? Esattamente, perché la Francia è ormai sfiorata dalla crisi debitoria e teme per la sua tripla A. Cioè il governo francese è preoccupato che l'haircut, questo taglio sui bond appunto greci, possa in qualche modo creare una dipendenza grave poi sui bilanci francesi. E cosa può succedere a questo punto? Che la Parigi chiederà un maggior coinvolgimento del fondo, dell'FSS, nella risoluzione di questi problemi, e invece la cancelliera Angela Merkel banche meno preoccupate di questi temi, perché le banche tedesche nel frattempo si sono alleggerite dei bond greci, saranno meno diciamo preoccupate. Questo quindi creerà dei problemi, perché le banche nel frattempo dovrebbero poi trasformare i bond trentennali in coupon al 6%, eccetera eccetera. A questo punto si parla di 200 circa miliardi di euro di bond greci detenuti dai privati, e che dovrebbero perdere il 50% del loro valore, quindi stiamo parlando di cifre veramente rilevanti. Mm-mm. Quando tu parli di privati, perché non vorrei generare confusione tra gli ascoltatori, parli delle banche. Sono banche, ecco, e investitori, esatto, investitori istituzionali. Quindi quando si parla di privati non si parla del piccolo risparmiatore, che poi se ha in portafoglio qualche titolo greco, vedremo per quale motivo ce l'ha anche, e questo è un altro discorso. Vittorio, io devo salutarti, tra poco ti chiedo se ci sono delle reazioni rispetto alla famigerata missiva italiana che dovrebbe essere arrivata. Sì, le reazioni, come ti dicevo, sono abbastanza moderatamente positive, nel senso che le prime reazioni sono appunto determinate ad accogliere con favore questi nuovi impegni che l'Italia porta qui. Resta però il fatto che ci sarà probabilmente ancora nuove pressioni. Tieni conto che l'Ecofin previsto domani è saltato. Anche quello. Questo vuol dire che il Consiglio degli Stati ha deciso di demandare all'EBA, l'autorità bancaria, e quindi alla Commissione, la revisione dei dettagli. Quindi vuol dire che il vertice rischia di arrivare, diciamo, un comunicato di principi senza dettagli, insomma uno stallo. Il rischio è che domani i mercati possano punire questa continua rinvio delle decisioni. Questo è vero, ma d'altronde com'era possibile arrivare a delle decisioni definitive data la portata anche delle misure da prendere e della crisi in corso? Vittorio, ti chiedo solo in 30 secondi una sensazione su questo. La sensazione era che almeno di dare la sensazione che ci sia un accordo, invece la sensazione della vigilia, quindi come potete immaginare si sono appena riuniti i 27, poi ci sarà un nuovo vertice, anche qui una situazione piuttosto inusuale, solo 17, quindi l'Eurozona continuerà open-ended, quindi senza limiti temporali per tutta la notte, e ci si aspettava e ci si aspetta ancora un accordo almeno su uno dei tre fronti più importanti, e infatti, il greco, la ricapitalizzazione delle banche e il fondo salva stati. Grazie a Vittorio Daroldi, inviato a Bruxelles per il Sole 24 Ore, grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica. Intanto mi sa che mi avete fatto fare anche confusione sulle pensioni, non è che ho invertito quelle di vecchiaia con quelle di anzianità prima quando ho fatto la descrizione. Vabbè, per tutte le cose che io non ho potuto chiarire perché non abbiamo avuto tempo, c'è il pensionometro domani con il Sole 24 Ore. Da Deborah Rosciani a tutti, buona serata. Radio 24. La passione si sente.